Scordati di me questa sera che non hai da fare, e tutta la città è allagata da questo temporale, e non c'è sesso e non c'è amore, né tenerezza nel tuo cuore. Capita anche a te di pensare che al di là del mare vive una città dove gli uomini sanno già volare, e non c'è sesso senza amore. Nessun inganno, nessun dolore. E vola l'anima leggera, sarà quel che sarà, questa vita è solo un'autostrada che mi porterà alla fine di questa giornata, e sono niente senza amore. Sei tu il rimpianto e il mio dolore, che come il tempo mi consuma. Lo sai o non lo sai, che per me sei sempre tu da sola. Chiama quando vuoi, basta un gesto, forse una parola. Che non c'è sesso senza amore. È dura legge nel mio cuore. Che sono un'anima ribelle. Ricordati di me, della mia pelle. Ricordati. Amore, né tenerezza nel tuo cuore, che raramente si innamora. Ricordati di me quando ridi, quando sei da sola. Fidati di me, questa vita è questo tempo volare.